MS parte 2. La storia continua con una citazione d'eccezione. Questa è la mia storia e nient'altro. Te la racconto in rima perché non so fare altro. Sono così lontano da me che mi manco. Poi quando mi avvicino scrivo e ti spacco. Questa è la mia storia e nient'altro. Te la racconto in rima perché non so fare altro. Sono così lontano da me che mi manco. Poi quando mi avvicino scrivo e ti spacco. A 16 anni stavo messo male. Guardavo le stelle da una barca al mare ed era inverno, ma il freddo era al mio interno, ghiaccio che non si scioglie ed io lì fermo. Sotto il mio tetto sembrava tutto stretto, ogni foglio d'ogni sogno finiva in un cassetto. Nel mio futuro mi vedevo a fare qualche lavoretto e più che il caffè ogni pasto era corretto. Il mondo dai miei occhi aveva un altro aspetto e rispetto ad ogni adulto mi sentivo un insetto. Mi sentivo sempre dire tu non hai rispetto e più che una città normale mi sembrava un ghetto. Cercando la montagna manco fossi Maometto, così ho imparato a prendere i problemi di petto, tenendomi dentro tutto ciò che non ho detto. Zero libri di moccia, mi sentivo in un fumetto, amando il ricordo di quello che proietto, ma odiando me stesso più di quanto non facessi già da un pezzo. Ed ogni gesto più profondo anche oggi non lo apprezzo, non lo apprezzo. E no che non lo apprezzo. E no che non lo apprezzo. Questa è la mia storia e nient'altro. Te la racconto in rima perché non so fare altro. Sono così lontano da me che mi manco. Poi quando mi avvicino scrivo e ti spacco. Questa è la mia storia e nient'altro. Te la racconto in rima perché non so fare altro. Sono così lontano da me che mi manco. Poi quando mi avvicino scrivo e ti spacco. Ho tante domande, non chiedermi risposte. Rispondere scocciato come un impiegato alle poste. Viaggi lunghi o senza soste. Se ti prendi bene prenderai solo batoste. La buona volontà non paga, questo l'ho capito guardandoti fuori da ciò che avevo costruito. Ricordo bene la tensione di quei giorni e tuttora siamo tranquilli solamente nei sogni, riempiendo bagagli di vestiti e rimpianti, pregando santi per andare avanti, perché anche i soldi non cadono dal cielo e come ti distrai ti ritrovi a zero. Ma un pensiero non ha valore e come Neffa l'ho imparato aspettando il sole. Se chiedi di ustionarti a volte il fuoco dentro, grazie a Dio che ce l'abbiamo, perché vivo a stento. E quando in mezzo a cento in un frammento mi rivedo e che sto sguardo è mio, adesso non ci credo. Dedico ste rime a chi come me non ha capito un cazzo di sé. E se tu ci sei riuscito, dammi la soluzione. Dopo siedi, se mi vedi ti rivelerò il mio nome. E se ci sei riuscito, dammi la soluzione. Dopo siedi, se mi vedi ti rivelerò il mio nome. Questa è la mia storia e nient'altro. Te la racconto in rima perché non so fare altro. Sono così lontano da me che mi manco. Poi quando mi avvicino scrivo e ti spacco. Questa è la mia storia e nient'altro. Te la racconto in rima perché non so fare altro. Sono così lontano da me che mi manco. Poi quando mi avvicino scrivo e ti spacco. Sempre dritto dal cuore, MS parte 2.